giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Domani lo sciopero generale per il settore pubblico proclamato da CGIL e UIL contro la finanziaria del governo. Decine di migliaia di lavoratori potenzialmente coinvolti. Astensione dal lavoro nei trasporti limitata dalle 9 alle 13 dopo la precettazione e il 24 novembre toccherà al settore privato. A Monfalcone ci sono moschee abusive che vanno chiuse, ne è convinta la sindaca Cisint che annuncia provvedimenti e torna in primo piano il dibattito sulla convivenza con la folta comunità islamica. In quelle condizioni psichiche forse non avrebbe dovuto nemmeno essere tenuto in carcere, così il garante dei detenuti, Franco Corleone, a proposito del suicidio avvenuto ieri nel penitenziario di Udine. Qui il problema è il sovraffollamento, dice, ma i piani per migliorare ci sono. Ricerche con i droni tra Pordenone e Sacile per individuare i due ex fidanzati scomparsi dalla provincia di Padova sabato scorso dopo un litigio. Si teme per la loro vita, in particolare per quella della ragazza. Trasloco in corso a Trieste per il Museo Sveviano, per il Museo Joyce. Dal prossimo anno entreranno a far parte del museo dedicato alla letteratura in Piazza Ortis. Si chiama Come aiutare ed è il nuovo portale del volontariato regionale ideato dall'animatore della Onlus Un canestro per te. Vuole promuovere e valorizzare il terzo settore. Anche Caravaggio era stato dimenticato e poi riscoperto in una Lectio Magistralis a Pordenone. Stasera il critico d'arte Vittorio Sgarbi racconta la figura di un artista compreso solo a distanza di secoli. L'intervista nel giornale radio. Spesso la realtà supera la fantasia e la satira stessa, lo assicura Vittorio Lattanzi, uno degli autori del sito satirico Lercio, protagonista Udine al Fake News Festival con uno spettacolo in scena stasera al Palamostre. Basket, per la promozione in A1 c'è anche la APU, il salto di qualità ieri nella vittoria schiacciante sulla capolista Fortitudo. Domenica altro big match per confermarsi a Forlì tra le seconde in classifica. Buongiorno da Andrea Covre e Dario Ronzoni per questa edizione del giornale radio regionale. Entra nel vivo anche in Friuli Venezia Giulia la mobilitazione lanciata dalle segreterie nazionali di CGIL e UIL contro la manovra finanziaria varata dal governo. Il primo sciopero che interesserà tutto il territorio nazionale è stato proclamato per domani nei settori pubblici. Per il trasporto è stata disposta la precettazione con la limitazione dello sciopero a 4 ore al mattino. E questa mattina Udine e CGIL e UIL hanno presentato gli aspetti organizzativi, le modalità e le ragioni dell'astensione dal lavoro. Potrebbe coinvolgere più di 90.000 lavoratori del pubblico impiego lo sciopero indetto da CGIL e UIL per domani. Oltre 300.000 invece i lavoratori chiamati a incrociare le braccia venerdì 24 novembre, quando toccherà al comparto privato. La legge di bilancio del governo aumenta le divergenze del paese, indica il segretario regionale CGIL, William Pezzetta, intervenuto in conferenza stampa a Udine assieme al parigrado UIL, Matteo Zorn. Pochi soldi per il rinnovo dei contratti, risorse minimali per scuola e sanità. I FAECO, Matteo Zorn, avevano fatto delle richieste per tutelare le fasce più deboli, ma non sono state ascoltate. Tra queste la detassazione per gli aumenti contrattuali per favorire rinnovi, pensioni di garanzia per i giovani con lavori discontinui, oppure la deducibilità pressoché totale del lavoro domestico. In regione CGIL è storicamente radicata nel comparto scuola, UIL più forte nel settore sanitario, ma anche tra le autonomie locali più del 40% dei dipendenti è iscritto a una delle due sigle. L'astensione dal lavoro sarà di 8 ore nel pubblico impiego, scuole, ente regione, comuni, sanità, poste, dimezzato a 4 nei trasporti, bus e treni, dalle 9 alle 13 dopo la precettazione firmata dal ministro Salvini. In tutti i settori sottoposti a soglie di garanzia saranno assicurati i servizi essenziali. Diverse le manifestazioni che accompagneranno l'agitazione. A Trieste le due iniziative in centro e davanti all'ospedale coinvolgeranno anche i pensionati e i lavoratori dell'ex provincia di Gorizia. A Pordenone, volantinaggi davanti alle sedi degli uffici pubblici. 4 le iniziative a Udine, al centro studi davanti alla sede di Arriva Udine, all'ingresso dell'ospedale e sotto la sede della regione. Qui verrà chiesto un incontro al presidente del consiglio regionale Bordin. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Monfalcone la sindaca Cisinta ha deciso di chiudere 2 locali che a suo dire si erano trasformati in moschee abusive, un provvedimento che fa tornare in primo piano il tema dei rapporti con la folta comunità islamica presente in città. All'esterno una scritta centro culturale, le vetrate sono oscurate, alla maniglia della porta appesi i tappeti per la preghiera. Chiediamo di entrare ed una veloce ripresa ci viene anche concessa. Ci sono alcuni uomini arabi intenti nella preghiera in questo piano terra di una palazzina non lontana dal centro di Monfalcone. Questa di via Don Fanin è una delle due sedi della cittadina per le quali la sindaca da Cisenta ha disposto due provvedimenti che inibiscono con effetto immediato l'utilizzo dei due centri islamici quali luoghi di culto. L'altra sede si trova a pochi passi da qui, vetrate oscurate, porte chiuse. 4 mesi e mezzo di attività di monitoraggio e sorveglianza da parte della polizia locale hanno permesso di riscontrare che le sedi ufficialmente destinate ad uso ricreativo erano di fatto, dice la sindaca, vere e proprie moschee abusive, con anche 1000 persone raccolte in preghiera contemporaneamente in spazi ristretti e sprovvisti di dispositivi salvavita. Ho semplicemente ripristinato l'ordine e la sicurezza perché non devono esistere zone franche di predicazione senza controlli. Secondo la sindaca, questi luoghi possono essere veicolatori di messaggi di odio contro l'Occidente. Cerchiamo un confronto con i frequentatori delle due sedi culturali, i quali confermano che in preghiera ci si raccoglie soprattutto il venerdì in tanti. C'è chi parla di 250, chi di 400 persone. La polizia locale sarebbe invece arrivata a contarne anche 1090. Dai negozi vicini bocche cucite davanti alla telecamera, ma poi a microfoni spenti confermano che il venerdì e soprattutto durante il Ramadan sono tantissimi gli islamici radunati in questi luoghi che diventa difficile lavorare. Intanto anche la politica è intervenuta, se Marco Dreosto, senatore leghista, applaude all'iniziativa di Cisinte, parla di ritorno della legalità a Monfalcone, Enrico Bullian, Patto per l'autonomia, parla di esasperazione degli animi di diritto di culto che deve essere garantito. Monfalcone, Anna Vitaliani, TGR, Friuli Venezia Giulia. Dopo il suicidio di un detenuto avvenuto ieri nel carcere di Udine, il garante per i diritti dei detenuti, Franco Corleone, ha effettuato questa mattina una visita nel penitenziario cittadino, un modo per segnalare la vicinanza e forse indicare una via d'uscita al problema del sovraffollamento. Lo abbiamo sentito. Una misura di una carcerazione a una persona con una situazione personale probabilmente molto difficile è stata eccessiva, probabilmente occorreva pensare a una modalità diversa per impedire l'avvicinamento alla famiglia come era prescritto dal magistrato. Ci sono problemi di incolumità per i carcerati a Udine? Il problema è il sovraffollamento. Qui a Udine oggi sono più di 140 detenuti, la capienza è di 86 e quindi si capisce che tutte le necessità dei colloqui degli educatori, gli psicologi, il personale di polizia penitenziaria è tutto inadeguato rispetto a questo numero straripante. Come se ne esce? C'è in atto una profonda ristrutturazione. A metà dicembre sarà inaugurata la nuova sezione dei detenuti in semilibertà, cioè che escono la mattina per andare a lavorare e tornano la sera, e questo consentirà di avere nuovi spazi per i colloqui dei detenuti con le famiglie. Sono in corso dei lavori nell'ex femminile e per Pasqua avremo un polo efficace, formativo, culturale, di lavoro, e i lavori si concluderanno alla fine dell'anno prossimo con la costruzione di un teatro aperto alla città. Ci sono anche dei droni che stanno sorvolando la zona di Sacile e Pordenone alla ricerca della Fiat Punto di Filippo Turetta, il giovane della provincia di Padova scomparso da sabato sera con la sua ex fidanzata Giulia Cecchettin. L'auto è stata tracciata al confine con l'Austria ieri sera. Secondo fonti investigative rilanciate dall'agenzia di stampa alla Press, l'allerta sarebbe stata segnalata dal sistema Targa System, lo stesso che aveva già fotografato la targa sulle strade del Pordenonese nelle ore successive alla fuga e poi tra Vigonovo e Treviso, vicino al fiume Brenta e la foresta del Cansiglio. Poi le tracce hanno portato verso l'Alto Adige e l'Austria, appunto, l'avvocato Stefano Tigani, il legale che sta assistendo la famiglia di Giulia Cecchettin, rileva che l'ultima rilevazione elettronica attendibile del passaggio della vettura risalga a domenica mattina, intorno alle 9, sulla strada alla 51 di Alemagna, che da Cortina porta a Dobbiaco. Le ricerche dei due ragazzi stamattina si stanno restringendo tra la zona di Fossò in provincia di Venezia e Zero Branco in provincia di Treviso. Al lavoro cani molecolari, elicotteri e i reparti speciali delle forze dell'ordine e, come detto, le ricerche continuano anche nel pordenonese. Un sequestro per 109 milioni di euro, 3 persone arrestate e 20 denunciate. È il risultato di 2 indagini condotte dai finanzieri del Comando Provinciale di Udine, coordinate dalla Procura di Milano e durate 2 anni. Dopo 50 rogatori all'estero e ordini di indagine europei indirizzati verso più di 20 stati dell'Unione, non solo, è stata scoperta una frode carosello nella commercializzazione di prodotti petroliferi in evasione di IVA. Da questa ne è scaturita un'altra nella commercializzazione di pannelli fotovoltaici importati dalla Cina. In dei controlli al confine italo-austriaco di Tarvisio ad autocisterne di gasolio provenienti dall'Europa dell'Est, i finanzieri hanno accertato una commercializzazione illecita di prodotti petroliferi realizzata emettendo false fatture per oltre 240 milioni. I profitti, 23 milioni, hanno dato vita a reati di autoriciclaggio e riciclaggio. 2 degli arrestati sono risultati coinvolti anche in una nuova e più recente attività illecita caratterizzata da un'imponente frode a carosello perpetrata dal 2017 al 2021 nel settore dei pannelli fotovoltaici importati dalla Cina e successivamente commercializzati in Italia. Un uomo di circa 50 anni è rimasto ferito questa mattina in un incidente stradale a Varmo, nella zona di Cornazzai. Per motivi ancora da accertare, l'uomo ha perso il controllo dell'auto che stava guidando ed è finito cappottandosi in un fosso a bordo strada. Soccorso dal personale medico infermieristico inviato dalla SORES, insieme ai vigili del fuoco che lo hanno estratto dall'automobile, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Udine. Nessun altro mezzo sarebbe stato coinvolto nell'incidente. Ed ora continuiamo con la pagina del tempo, il cielo dopo con nuvoloso a variabile sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 17 gradi, a Udine 14, a Gorizia 13,5, a Pordenone 11,5. Su Piancavallo 9 gradi, a Forni di Sopra e Tolmezzo 8, Tarvisio 5, Sappada 2, su Monte Lussario e Monte Zoncolan 3 gradi. Tornando sulla costa, Grado 15 gradi, a Lignano 12. E le previsioni per oggi pomeriggio: aumento della nuvolosità in serata sulla fascia orientale, specie tra Isontino e Carso, non è esclusa qualche piovigine o qualche debole pioggia. Nella notte, tra giovedì e venerdì, probabili nebbie su pianura e costa lagunare che potrebbero perdurare anche nella prima parte del mattino di domani. Dal pomeriggio, deciso miglioramento a partire dal nord-ovest con ampi rasserenamenti, vento moderato da nord e aria secca. Una data per il trasferimento ancora non c'è, ma a Trieste dalla fine di ottobre il Museo Sveviano e il Museo Joyce hanno chiuso al pubblico ed è iniziato il disallestimento. Nel 2024 troveranno posto nel nuovo Museo della Letteratura, LETS, a poche centinaia di metri di distanza, al pian terreno di Palazzo Biserini. Svevo e Joyce lasciano i rispettivi musei e traslocano nel nuovo LETS, assieme a Saba. Dalla fine di ottobre i due spazi sono chiusi al pubblico e le operazioni di disallestimento sono in pieno svolgimento. Nel 2024 li ritroveremo a poche centinaia di metri di distanza, al piano terra di Palazzo Biserini. Riccardo Cepac, responsabile dei musei Svevo e Joyce. Sono l'esperimento che ha funzionato talmente bene da poi condurre a progettare e elaborare questo nuovo progetto, al cui interno ci saranno il Museo Sveviano, il Museo Joyce, un Museo Saba. Completiamo, diciamo, la triade, la trimurti. Hanno realizzato la letteratura modernista a livelli altissimi. Che Claudio Marx dice che Trieste è letteratura, non più di altre città, in questa ragione assolutamente. Una data per l'apertura al pubblico del nuovo spazio museale ancora non c'è. Dunque, i lavori stanno procedendo, siamo alla fase allestitiva. I lavori di ristrutturazione dello spazio sono finiti, i lavori di allestimento del nuovo museo sono in corso, quindi stiamo proprio lavorando ai testi, agli apparati multimediali, stiamo lavorando insomma a quello che sarà proprio l'allestimento, diciamo, quello che il visitatore vedrà. E se per il Museo Saba è questione di mesi, qualcosa si muove anche per la libreria di via San Nicolò, con numerose realtà e privati cittadini che si sono fatti avanti per contribuire al progetto di restauro. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il mondo del volontariato si organizza e per trovare maggiore visibilità ha messo a punto un portale internet. Oggi la presentazione, sentiamo. A cosa serve lo dice già il suo nome. www.comeaiutare.it è il nuovo portale per rendere più visibile il mondo solidale e ricchezza del nostro paese, spesso invisibile. Una vetrina del volontariato non profit e del dilettantismo sportivo che vive e si sostiene con donazioni. Il suo ideatore è l'ex cestista triestino e cavaliere della Repubblica Davide Monticolo, da 8 anni impegnato con la sua Onlus Un Canestro per Te a dare sostegno alle persone disabili. Ci spiega che l'idea gli è venuta dopo essersi reso conto dal di dentro che in rete mancava uno strumento per promuovere e valorizzare il terzo settore al meglio e come merita, moltiplicando l'esperienza del dono. 24 euro l'anno per iscriversi nelle 8 macro categorie di settori entro i quali le associazioni del non profit, sportive e dilettantistiche verranno comprese, richiamando chi vorrà dare loro un sostegno. Dalla sanità e ricerca alla disabilità, integrazione, animali e ambiente, emergenza, arte e cultura, fino allo sport e altro. La promessa dei promotori del portale è quella di donare il ricavato, tolte le spese di gestione e pubblicità, a favore di almeno 8 progetti di solidarietà, scelti anche tra i più votati solidali nella solidarietà. La piattaforma è già online, accedervi è semplice, alla portata anche di chi non ha dimestichezza con le tecnologie digitali. Una trentina le associazioni di tutta Italia che già si sono iscritte e che stanno pubblicizzando le proprie attività e i propri progetti, oltre ai riferimenti su dove e come fare le donazioni, con anche la possibilità di geolocalizzarsi per aiutarle a raggiungere meglio i potenziali donatori che molte volte non sanno di averle vicino casa. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. Gli appuntamenti questa sera al critico d'arte e sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi sarà al Teatro Verdi di Pordenone per una lectio magistralis su Caravaggio dal titolo Ecce Caravaggio da Roberto Longhi a oggi, inizia alle 20:30. L'appuntamento è il primo di una serie di incontri su arte, storia, economia e impresa promossi da Cronospan. A Sgarbi abbiamo chiesto cosa renda così attuale una figura come quella di Caravaggio. Non è mai stato altro che attuale, perché è un artista che dal punto di vista del rapporto con la sua opera è esattamente la mia età. È nato nel 51, io sono stato concepito nel 51, sono nato nel 52, ma prima di quella data Caravaggio non esisteva, cioè è stato sommerso da una damnatio memoriae che è durata fino al 1951, quando improvvisamente apparve in una mostra a Palazzo Reale a Milano, si rese conto che era un artista che corrispondeva al neorealismo per quello che riguarda il cinema, corrispondeva alla fotografia, era come il primo fotografo della storia, corrispondeva all'esperienza che sarebbe stata da dire a poco quella di Pasolini, quindi tutto in lui era proiettato verso una contemporaneità che lui aveva interpretato in un Ich Trunk, che è quello per cui ciò che si vede in lui è la realtà così come appare. E questo nessun pittore l'aveva fatto prima, per cui è stato necessario aspettare il Novecento per intendere una modernità travolgente che lo rendeva assolutamente diverso da ogni altro artista volto all'ideale o alla bellezza. Nel caso invece di Caravaggio, la pittura della realtà è la sua cifra che prima di lui non esisteva, per cui tutto questo è stato capito nel 1951 con questa grande mostra, e da allora lui ha proceduto, come è toccato poi qualche anno dopo Artemisio Gentileschi, diventando un simbolo della contemporaneità. Quindi abbiamo dovuto attendere secoli prima di capire Caravaggio. Cioè, nel caso specifico di Caravaggio c'è poi la consonanza con la vita di Pasolini, che io in più occasioni ho sottolineato, proprio a renderne la dimensione di un'attualità che era come un transfert, come se ascoltando la vita di Pasolini, Caravaggio, Pasolini avesse pensato di costruire la propria. Il comico e stand-up comedian Luca Ravenna arriva per la prima volta a Trieste al Teatro Politeama Rossetti con lo spettacolo dal titolo Red Sox, un work in progress in cui i pezzi cambiano in continuazione tra i temi, l'esperienza recente di Ravenna in America e quelli che definisce i 3 grandi tabù italiani: la droga, le raccomandazioni e la blasfemia. Lo spettacolo, lo ricordiamo, al Rossetti, inizia alle 21. Al Fake News Festival in corso a Udine è in programma il Lercio Show, spettacolo messo in scena al Palamostre alle 21 da 2 degli autori redattori del sito satirico Lercio, Rosaria Greco e Vittorio Lattanzi. Lo show ripercorre i 10 anni del sito e riflette sul paese e le sue contraddizioni. Abbiamo parlato con Lattanzi e gli abbiamo chiesto se è vero che a volte la realtà supera la comicità. Quando la la stampa somiglia alla sua parodia, c'è un problema che non sta nella parodia. Spesso capita che in realtà è davvero più fantasiosa, anche perché è da lì che noi prendiamo spunto. Questo governo adesso ci sta un po' aiutando. Più bello è stato il governo giallo-verde, che è stato l'anno d'oro della sagra. Un governo così non capiterà mai più. Quello però era davvero un concorrente. Fare satira su internet, sui social, è diverso rispetto a farla in altri modi? Sarebbe impensabile ignorare internet per fare satira. Diciamo che internet è comunque un canale preferenziale. Ho visto che tutti i colleghi satirici, bene o male, fanno gli stessi percorsi. Sono partiti da Facebook, poi da Facebook sono migrati su Twitter, poi su Instagram, poi su adesso anche TikTok, cioè seguono un po' la tendenza del web. Come nasce una vostra battuta? Noi pensiamo una battuta e poi la travestiamo da notizia. Ma la battuta nasce dalla notizia? Sì, può nascere da una notizia, da una gag, cioè ci sono battute che sono slegate fuori tempo, cioè nel senso quando le fai, ridi. Oppure sono battute legate al momento, è già una battuta su Gianbruno, è preistoria ora, una cosa di 3 settimane fa, su guarda, è già caduto tutto nel dimenticatoio. Nello spettacolo di Udine, una piccola parte dello spettacolo è dedicata alle notizie che avremmo voluto scrivere noi, cioè sono della stampa vera che abbiamo invidiato tantissimo, perché alcune sono perfette. Faccio un esempio: la bambina chiede la torta di compleanno con Little Pony e questo c'è che capisce Little Tony. Lo sport, il basket, il successo dell'APU di ieri sera contro la Fortitudo ha lasciato il segno. Potrebbe essere lo spartiacque definitivo verso un campionato di vertice. Il punto nel servizio. L'APU riempie il modulo per la promozione ora e in lista anche lei. Fortitudo Bologna tenuta al gelo dei meno 31. Aquile bianco-blu che perdono l'imbattibilità che durava da 8 partite. Squadra di coach Caia priva di Aradori, ma la differenza la fanno la ferocia e la lucidità messa sul parquet dall'Old Wild West. Il palacarnera, tutto esaurito, si infiamma già nei primi 67 secondi grazie alle triple di Clark, che contribuisce al 20 su 40 da 3 finale, che significa record in questa a 2. Al termine del primo quarto il match è di fatto chiuso grazie ad un più 15 di scarto, 25 a 10. All'intervallo lungo il margine è di più 13, 43 a 30 per la squadra di coach Vertemati, che difende a zona e al ritorno sul parquet strappa ancora con i canestri di Carotti, Alibegovic e Icangi, alla fine tutti in doppia cifra. Più 23 il vantaggio per l'APO di inizio ultimo quarto, quello del crollo Fortitudo. Finisce 87 a 56 per i friulani, in festa con il pubblico del palacarnera. Miglior marcatore per Udine Carotti, autore di 18 punti. Clark chiude con 15, 5 su 7 da 3 punti. In classifica APU al secondo posto insieme a Forlì con 7 vittorie. Proprio i romagnoli domenica saranno i prossimi avversari di Udine nella penultima di andata, mentre sabato la Fortitudo sarà di nuovo su un parquet friulano a Cividale contro la squadra di Pillastrini. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. E per l'APU dunque è già il momento di pensare al prossimo big match, quello in Romagna contro Forlì di domenica prossima. Sarà uno scontro tra le seconde in classifica. Sentiamo cosa ha detto l'allenatore di Udine, Adriano Vertemati, alla sua squadra subito dopo il successo di ieri al Palacarnera. Ho parlato individualmente con ognuno di loro, due parole su quello che è stata la loro partita e quello che ci aspetta domenica. Ho detto loro, guarda, con grande onestà ti sto dicendo quello che ho detto in spogliatoio, che è, come avevo detto questa mattina, questa era solamente una partita importante di un percorso e rimane una partita importante di un percorso, ma di un percorso, cioè non è niente. Giocheremo partite ben più importanti durante l'anno, non per l'avversario, ma per la posta in palio. Quindi semplicemente questo, ora tocca a noi far vedere che possiamo competere dopo uno sforzo psicofisico di questo tipo in un campo che dopo la Fortitudo forse ha l'impatto del pubblico maggiore contro una squadra che anche lei credo è a pari punti con noi in classifica, quindi molto forte, ha solo 2 sconfitte. Pallanuoto maschile nella quarta partita della fase a gironi della Eurocup maschile. La Pallanuoto Trieste ospita il Primoras Cotor. Si gioca alla Bruno Bianchi con inizio alle 20. Altri appuntamenti a Trieste: la compagnia Slow Machine porta in scena lo spettacolo Notti, ispirato alle notti bianche di Dostoevsky, omaggio allo scrittore russo a 2 secoli dalla nascita. In scena alla Sala Bartoli da oggi al 18 novembre. Al Cinema Zero di Pordenone, al Visionario di Udine, sarà proiettato dalle 19 il nuovo film di Ken Loach dal titolo di Old Oak. Al termine è in programma un intervento del regista che sarà in collegamento in diretta da Roma. Torna oggi a San Vito al Tagliamento il piccolo festival dell'animazione. Tra gli ospiti alle 20.30 la pordenonese Sara Colaone, da poco uscita con la prima versione in graphic novel del Barone Rampante di Italo Calvino. Presentazione del libro di Paolo Strazzolini dal titolo Guida Alberto Pasolini, Hermes da Porzus a Bosco Romagno, riedizione del volume sulla tragica fine del fratello minore di Pierpaolo Pasolini, all'ospitale di San Giovanni a San Tommaso di Maiano alle 20.30. A Trieste va in scena da oggi fino al 19 lo spettacolo Tesla di Xenia Martinovic e Federico Bellini, che indaga la figura del grande scienziato e inventore Nikola Tesla, alle 20.30 al Teatro dei Fabbri. A 10 anni dalla prima edizione, nuova edizione del libro di Tristano Matta dal titolo Il Lager di San Sabba, dall'occupazione nazista al processo di Trieste. Presentazione al Museo Revoltella di Trieste alle 17.30. All'Antico Caffè San Marco di Trieste è in programma invece la presentazione del libro Albergo Vittoria, ovvero l'internamento dell'alta società tra il 1940 e il 43 di Gianni Orecchioni. Dialoga con lui il professor Livio Sirovic alle 17.30. A Spilimbergo la presentazione del libro di Vito Mancuso, Non ti manchi mai la gioia, breve itinerario di liberazione, per la rassegna Fuori città, con l'introduzione di Stefano Bortolus, al Teatro Miotto alle 20.30. Sono le 12.56, si chiude questa edizione del giornale radio regionale redatta e condotta da Dario Ronzoni e Andrea Covre. È andata in onda grazie alla collaborazione tecnica di Mauro Cumine, Paolo Cassano. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso. Grazie per la vostra cortese attenzione e buon proseguimento di ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.